9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 8 marzo, ovviamente è l'8 marzo, quindi il saluto alle signore è di particolare ovviamente calore. Consiglio, comprate e leggete oggi per l'8 marzo Uomini che lavorano con le donne, un libro di Andrea Bianchi, e sulle diversità, sulle immonde politiche di discriminazione che i dirigenti, manager maschi continuano a perpetrare nelle aziende italiane. Diffondete questo libro, imparate a essere, non dico un uomo nuovo come scrive l'autore, perché io alla filosofia degli uomini nuovi ci credo poco, ma insomma degli uomini un po' diversi, soprattutto perché dare spazio alle donne non è una questione di banale equità, significa perseguire la convenienza, l'utilità, creare maggior valore, e questo vale per il pubblico, per il privato, a tutti i livelli. Il libro è Uomini che lavorano con le donne, per caso è l'editore del gruppo 24 ore, Andrea Bianchi, lo abbiamo presentato ieri in mezzo a molte manager che giustamente chiedevano la testa di molti uomini rotolare. Allora, questo è il buongiorno. Oggi ci occupiamo di un prosieguo ideale dei temi delle puntate di questa settimana, che abbiamo cominciato con anticipo rispetto all'anniversario dell'11 di marzo dello tsunami che ha colpito la centrale Daiichi a Fukushima, e abbiamo cominciato lunedì con una riflessione su quello, ma siamo andati avanti in questi giorni su le tante storie dell'Italia che proprio soprattutto nel settore dell'energia, delle infrastrutture energetiche, vedono grandi gruppi internazionali salutare il nostro paese. Ieri abbiamo visto l'esempio di British Gas, che per il rigassificatore di Brindisi, dopo 11 anni di impegno di denari, di procedure autorizzative, poi di impugnative amministrative, di indagini penali di tutti i tipi, a tutti i livelli, ha detto addio all'Italia, perché questo paese non sa decidere. Oggi trovate sul Sole 24 Ore un nuovo esempio di un'altra impresa internazionale, questa volta la spagnola Natural Gas Fenosa, che dopo 7 anni sta esaminando l'ipotesi di salutare il nostro paese per le stesse ragioni a Trieste, anche in questo caso per un rigassificatore. Oggi abbiamo un ospite, ve lo presenterò tra un minuto, che ci avviserà del rischio che un terzo grande gruppo multinazionale, questo caso è la Veolia francese, che attiva il settore delle acque, del riciclo delle acque, dei termovalorizzatori, saluti anch'essa il nostro paese, un paese che non è in grado di decidere, che rinvia l'orizzonte temporale di ogni priorità energetica, che non è un piano nazionale energetico, che dà la tutela a terzi a ogni livello e grado del procedimento autorizzativo amministrativo, con livelli di impugnative che non è uguali, un paese in cui ciascuno si ritiene depositario del superiore senso etico, lo abbiamo visto ieri con le telefonate di obiezioni a Brindisi, e che non riuscendo a decidere si trova con un pugno di polvere in mano alla fine. Questa sarà anche la riflessione di oggi, allargandoci poi però al tema della settimana, perché a un anno di Fukushima capire come si fronteggia al meglio con l'ideale mix di rinnovabili il problema di un paese che ha enormi questioni irrisolte ancora sugli incentivi, quali gli incentivi ordinati e ordinari e straordinari alle diverse forme di mix energetico, e come deve trattare, imparare a trattare il problema enorme che abbiamo un po' messo all'angolo dei rifiuti, e di come trarne nel giusto ciclo completo anche un riassorbimento delle potenzialità energetiche, è una riflessione ancora più ampia. Detto questo, prima dell'ospite, la consueta analisi al volo del meglio delle notizie europee che spiegano perché apriamo e chiudiamo ancora una volta con i Doors. Inciso, andate al sito www.radio24.it perché il sondaggio prosegue fino a venerdì, siamo a diverse migliaia di voi che hanno espresso un'opinione, stanno vincendo 74% il partito dei Doors, io non so che dirvi, tutti coloro che ritengono che col governo Monti abbiamo la crisi alle spalle e devono votare in questi pochi giorni che restano se volete ribaltare il verdetto. Ma oggi è ovvio, come ha detto Deborah Rosciani al GR pochi minuti prima di noi, che tutta l'attenzione dei maggiori organi internazionali è sulla percentuale di adesione al PSI, alla con partecipazione volontaria allo swap del debito pubblico greco. Bisogna vedere se si supera la percentuale del 75% e si arriva al 90%. Vi segnalo alcuni dei pareri che mi sono piaciuti di più, quelli di Nouriel Roubini, che scrive su FT.com, sul sito del Financial Times. Nouriel Roubini dice che è un buon affare e la sua previsione è che si sta sopra il 75% di adesioni, ma non sopra il 90%. È la stessa opinione condivisa da Reuters Breaking News. Allarghiamoci invece un pochino alle questioni franco-tedesche. Ci sono dichiarazioni ieri sulla stampa francese di Pierre Moscovici, che è il general master, l'organizzatore della campagna di Hollande, il candidato socialista. Piena conferma che Hollande, se vince le elezioni, inizia chiedendo modifiche al trattato franco-tedesco e poi al fiscal compact. Invece dalla Financial Times Deutschland ci dice che Angela Merkel, il cancelliere tedesco, avrebbe espresso dubbi sul Portogallo in una riunione a porte chiuse con i parlamentari del suo partito a Berlino, e avrebbe ribadito il no alla fusione ESM-FSF con soglia oltre i 750 milioni di euro, quindi non si arriva al trilione di euro secondo queste versioni. Jürgen Stark sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung critica il bilancio della BCE, quindi vanno avanti le critiche a Mario Draghi dopo le prese di posizione del presidente della Bundesbank dei giorni scorsi. Attenzione che in Germania, trovate notizie e commenti su questo in tutti i giornali tedeschi, e la produzione industriale dell'ultimo mese è deludente rispetto alle attese, e quindi siamo a un 5% più giù cumulato all'inizio dell'anno rispetto al 2011, e gli economisti iniziano a preoccuparsi dell'effetto che dipende dal commercio intraeuropeo per la grande frenata in corso dall'ultimo trimestre dell'anno scorso per via dell'euro debole. Direi che ci possiamo fermare qui sul dibattito invece Weidmann Draghi, sul quale oggi interverrà, è atteso in parole di Draghi in conferenza stampa. Wolfgang Munchau, che scrive sullo Spiegel Online, dice che si è troppo esagerato questa critica. In definitiva il sistema Target 2 è un sistema che fa fotografia di flussi finanziari, non è un vero e proprio sistema di prestiti, e quindi è sbagliato pensare di eccessive esposizioni con collaterali troppo laschi. Ed è la stessa opinione su Erdal Tribb e Olaf Sievert. Quindi una giornata tutto sommato, rispetto al solito, effettivamente non con troppa durezza nei toni tedeschi sui problemi degli euro deboli. Allora, andiamo al punto. Chi è l'ospite di oggi? L'ospite di oggi, che inizia parlandoci di questo allarme che Violia se ne vada, è un imprenditore, è uno di questi tanti, però un po' matti, nel senso matti positivamente, imprenditori italiani che stanno proprio nel settore dell'energia e che si occupano da sempre, anche associativamente, lo hanno fatto in passato, del tentativo di fare pesare di più l'interesse di chi fa energie alternative, incardinati in una visione di convenienza per il paese di energie rinnovabili. E da questo punto di vista, quindi, l'ho scelto apposta, perché voi non pensiate che questa è una scelta a favore degli energivori grossi, degli incumbent, Enel, Eni, eccetera eccetera. No, pensiamo, ho scelto a un ospite capace di contemperare l'interesse generale con quello della propria azienda. Si chiama Pietro Colucci, qui con noi, è past president di Assoambiente, cioè l'associazione delle imprese e servizi ambientali, attualmente però non ha incarichi associativi, e io nel ringraziarlo lo invito innanzitutto a presentare poi anche la sua impresa che fa. Il nostro ospite si chiama Pietro Colucci. Buongiorno a tutti. La mia impresa è il gruppo Sostenia, che si occupa di energie rinnovabili attraverso una quotata che si chiama Kinexia, e di ambiente attraverso un'azienda che si chiama West Italia, che è figlia dell'acquisizione da un altro gruppo multinazionale che lasciò il paese 10 anni fa, per le ragioni più o meno diciamo non dissimili da quelle per cui British Gas e Veolia stanno decidendo in queste ore di lasciare l'Italia. Allora, partiamo da questa cosa di Veolia. Veolia ha fatto capire nei giorni scorsi, e ha riparlato ieri proprio lei con Veolia, di avere le valigie pronte, perché perdono troppi soldi, perché il termovalorizzatore di Gioia Tauro non fa passi avanti da molti anni, perché vanta crediti superiori a 100 milioni per il recupero dei quali sono in corso azioni giudiziarie. Insomma, è una grande azienda, in questo caso francese, quella di ieri era britannica, quella di Trieste che trovate oggi sul Sole e spagnola, ma lei li ha sentiti ieri, come stanno le cose, Colucci? Le cose stanno in questi termini. Durante la mia presidenza di Assoambiente, Veolia, che era già presente in Italia nel settore delle acque e del facility management, decise di investire con una importante acquisizione di un'impresa italiana ben 400 milioni di euro nel paese per far decollare un processo di industrializzazione del ciclo dei rifiuti, che è quello che è sempre mancato e che tuttora manca ad un comparto che è fatto di luci ma anche di ombre, e perché queste ombre non attira investitori istituzionali. Salutammo ovviamente l'arrivo di un'altra grande multinazionale in questo settore, come il rinnovato interesse degli investitori per un comparto che langue da anni anche per carenza di un quadro normativo chiaro, e con tristezza constatiamo che, nonostante i 4 anni trascorsi dal 2007 il loro principale investimento, e nonostante appunto un importante investimento fatto in termini monetari, 300 dipendenti, un certo numero di impianti in Italia, 120 milioni di fatturato, oggi lasci con amarezza il paese, tra l'altro dei loro vicini, su cui noi abbiamo sperato potesse fare un grande sviluppo. Allora, il motivo, ieri abbiamo rivisto in sintesi tutto ciò che dovremmo e potremmo cambiare nelle procedure amministrative, nelle autorizzazioni, dell'identificare tempi certi che significano ritorni certi sul capitale degli investimenti, meccanismi di ammortamento certi di ciò che uno mette nei mezzi propri o in quelli che ha chiesto al mercato per realizzare i progetti, significa naturalmente certezza poi sulle modalità attraverso le quali si remunera l'investimento, nel caso in cui ci siano prezzi, tariffe amministrate o con partecipazioni in caso di opere pubbliche, naturalmente alle tariffe. A questo servono i tempi certi, è quello che manca nel nostro paese. Però se andiamo a vedere poi un pochino, ci occupiamo di un anno di Fukushima e del dibattito europeo e dell'autonomia minacciata, insomma, che non abbiamo l'autonomia energetica italiana. Lei ha lanciato pochi giorni fa un allarme, ha detto il governo trascura l'energia perché qua piano energetico nazionale per il momento non se ne vede come priorità e non ce l'abbiamo da anni. Quindi, al di là di tutto ciò che sappiamo e di cui dobbiamo occuparci sulle procedure, però sull'energia questo governo sembra che batta un po' la fiacca, c'ha altre priorità, forse è troppo chiedere anche questo, ma questa non è una delle priorità fondamentali. Beh, questo governo aveva ed ha tuttora il compito del risanamento, e però in qualche modo interpreta per noi imprenditori, che lo guardiamo con ansia e con attenzione, anche un segnale di grande cambiamento rispetto al passato, ed è in questa logica di cambiamento che noi chiediamo che possa occuparsi di aspetti che non sono prettamente legati al risanamento ma che sono legati all'indirizzo strategico del paese, cioè alle grandi sfide che il paese deve affrontare. È chiaro che un anno di tempo, un anno di gestione è poco per pensare in termini strategici, quando invece governi ben più saldi non sono riusciti ad affrontare i temi. Ma è anche vero che c'è un'intera economia, un intero comparto che langue, e la sfida strategica energetica del paese è una di quelle che il paese deve affrontare se vuole uscire dal guado in cui è finito. La nostra idea è che il governo non abbia messo al centro dell'agenda del suo lavoro alcuni temi, fra cui il piano energetico nazionale, che dopo la bocciatura del referendum sul nucleare ha in qualche modo ridotto ulteriormente il mix di fonti energetiche che oggi rappresentano l'alimentazione della parte elettrica ma anche dei carburanti e del termico per le imprese e per le famiglie. Un tema enorme che rimane al momento nel cassetto. Allora, mentre gli italiani vedono naturalmente i prezzi alla pompa di benzina e dei carburanti arrivare ai 2 euro e continuano a grattarsi la testa, e lo Stato continua a fare da questo punto di vista il furbo, perché ricaricando l'IVA anche sull'accisa, tassa su tassa, è una cosa che quando si studia scienza delle finanze si studia come l'elementare esempio di ciò che bisognerebbe evitare di fare. Lo Stato lo fa a proprio vantaggio, naturalmente questo significa che per andamenti di prezzi industriali e la distribuzione dei carburanti la componente pubblica è quella largamente prioritaria ed è quella decisiva per cui si tocca questo record. Naturalmente la gente poi dà la colpa ai cattivi petrolieri. Però, detto tutto questo, mentre questo avviene, abbiamo visto che in Germania proprio in questi giorni ci sono le manifestazioni sotto il Bundestag, perché i Verdi protestano, perché alla fine, dopo mesi di indecisione, il governo tedesco ha deciso di abbassare i sostegni, gli incentivi pubblici al fotovoltaico. Il fotovoltaico tedesco è per anni stato l'esempio che ha spinto anche il nostro paese a dare moltissimi aiuti, concentrati nell'ultima unità di tempo, negli ultimi anni alle nostre spalle, proprio al fotovoltaico. Poi fare marcia indietro, poi iniziare a non far capire al mercato e agli investitori qual era l'idea precisa in cui si stava andando. C'è stato anche nel nostro paese un equivoco, un effetto un po' sbornia su troppi incentivi di questo tipo, secondo lei è stato corretto diminuirli? Oggi è un quadro di incentivi, secondo lei, appropriato per il mix di fonti a cui puntare prioritariamente per diminuire l'impatto sulla dipendenza estera nel nostro paese, oppure anche lì, cominciamo dagli incentivi, c'è qualcosa da rivedere? Beh, cominciamo dagli incentivi. Innanzitutto il fotovoltaico l'ha fatta da padrona rispetto al teatro nazionale e ai mass media. È una delle fonti, lo ricordo, di energie alternative. Ce ne sono tante altre che dipendono dal mercato dei certificati verdi, quindi di fatto sono accollate, sono pagate dai produttori di fonte fossile. Le energie rinnovabili sono un'alternativa all'energia fossile, sono complementari, hanno una discontinuità di produzione, lo sanno tutti, ed è il grande tema su cui bisogna lavorare attraverso le smart grid per riequilibrare questa discontinuità. Ma sono anche oggi l'unica alternativa all'unico, diciamo, vero comparto che è rimasto in termini di produzione di energia elettrica, che è il gas. Il tema è che gli incentivi hanno drogato un po' il mercato, questo perché non si è fatta programmazione, si è inseguita, diciamo, dire, l'onda, e c'è stata una innovazione tecnologica che ha sorpreso tutti, compreso la politica, e questo è successo, devo dire, non solo a livello italiano ma a livello mondiale. Tenga conto che soltanto 2 o 3 anni fa un impianto fotovoltaico costava il quadruplo di quanto costa oggi. È chiaro che in questa forbice si è infilata la speculazione, gli incentivi non sono stati prontamente adeguati dai governi e ovviamente la speculazione finanziaria ci si è infilata approfittando di una condizione perché si muove molto più veloce di quanto non facciano i governi. Il tema è su questi, perciò chiediamo un piano energetico. Quando si affrontano temi di questo tipo bisogna programmare le cose, governare i fenomeni ed essere prontissimi con lo stesso dinamismo con cui si muove la speculazione finanziaria, che funziona ad onda come le cavallette, passano su un campo, lo divorano e passano al campo successivo. Adesso la speculazione si sta spostando su altri paesi che hanno incentivi ben più pingui di quelli che l'Italia ha saputo saggiamente ridurre, ma quegli incentivi sono serviti per far decollare un comparto, come era successo dopo il referendum nucleare di Chernobyl, per far decollare la metanizzazione del paese, o negli anni 60 per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, per consentire che tutto il paese fosse dotato dell'energia elettrica anche nelle aree in cui era svantaggioso economicamente portarvela. Quindi l'incentivo è un abbrivio, poi bisogna regolarlo e dominarlo, ma serve solo per far decollare un comparto. Allora, lei mi raccontava un esempio che vale la pena, perché naturalmente le vicende concrete fanno scendere le nostre considerazioni dall'orizzonte in cui parliamo un po' troppo agli addetti ai lavori, poi a chi a casa ci ascolta e sulle vicende concrete capisce ancora meglio di cosa stiamo parlando. Di un impianto nel Molise, se non ricordo male quello che mi diceva, che la sua impresa non ha potuto realizzare, quindi rientriamo negli esempi che stiamo facendo in questi giorni per una storia un po' particolare. Può raccontare ai nostri ascoltatori? Sì, noi avevamo contrattualizzato l'acquisto di un campo eolico regolarmente autorizzato, che aveva, diciamo, sì, l'eccezione da parte della sovrintendenza ai beni artistici e culturali locale, perché sosteneva che l'impianto aveva attraversava un tratturo, cioè i vecchi tragitti di transumanza dei bestiame nelle fasi, diciamo, nelle aree molto contadine dell'Ottocento, che peraltro sono tutti mappati a livello nazionale, sono tutelati, un tratturo che in realtà non era mappato ma che secondo la sovrintendenza era erroneamente non mappato. Questo ha portato una serie di ricorsi infiniti che si sono trascinati per quasi 8 anni, tutti vinti da noi a livello del Consiglio di Stato, fin quando il Consiglio di Stato ha addirittura condannato la sovrintendenza a pagare le spese per tutti i giudizi e diffidato, diciamo, questo sovrintendente da porre ulteriori vincoli. La normativa nel frattempo è cambiata, oggi la finanziabilità degli impianti eolici, vista la sua scarsa remunerazione e l'attesa spasmodica del decreto attuativo che ancora pende da un anno in qualche cassetto del Ministero, nonostante la norma sia stata varata un anno fa, ha reso impossibile il finanziamento, quindi anche davanti alle sentenze positive ormai è impossibile realizzare quell'impianto, quindi abbiamo lasciato cadere l'interesse. Questo non perché si voglia dare un giudizio di censura sulla sovrintendenza, che evidentemente sta lì a conservare, quindi a tutelare i beni artistici di un patrimonio nazionale che sono infiniti, fra i primi al mondo, ma perché delle volte sulle infrastrutture del paese non ci si interroga su come cambiare, su come coinvolgere la pancia di un paese che vuole essere sempre più partecipativa e sulla quale bisogna interrogarsi. La politica deve fermarsi a ragionare che i sistemi adottati in passato non sono più quelli attuali, anche le imprese devono fare questo. Allora, il tratturo non segnalato, avete capito? Il tratturo non segnalato e il sovrintendente, lo dico con il massimo rispetto per il sovrintendente, i cui Però troppo spesso nel nostro ordinamento i poteri veri sono quelli di dire no e opporre problemi, il tratturo non segnalato. Allora, a questo proposito, il problema è generale di questo paese. Faccio la seguente riflessione, ne farò un'altra poi dopo la pubblicità. Avete visto, non so quanti di voi, di sicuro lo hanno visto gli esercenti di attività commerciali o alberghiere, che è stata saggiamente, a mio giudizio, prevista la possibilità che per i turisti e per i residenti stranieri in Italia i limiti della tracciabilità a 1000 euro non valgano, in maniera che possano turisti e straniere pagare per beni e servizi nel nostro paese sopra i 1000 euro in contanti. Avete fatto caso a che cosa il nostro cervellotico Stato, il nostro legislatore e soprattutto i soliti tecnici, i tecnici delle finanze che scrivono le vere norme al politico, perché non illudetevi, non le scrivono i politici non ne sanno abbastanza, si devono affidare ai tecnici. Avete notato qual è la procedura per farlo? Mi permetto di riepilogarvela per farvi riflettere prima della pubblicità su come possa funzionare un paese che ha questa testarda abitudine per le quisquidie e le pinzellacchere, come diceva Toto. Ecco la procedura che bisognerà seguire. Allora, il soggetto italiano che vende il bene o presta il servizio al cliente estero deve naturalmente acquisire la fotocopia del passaporto del cliente, e va bene, deve pretendere un'autocertificazione che attestante che il cliente non sia cittadino italiano, cittadino di uno dei paesi europei o dello spazio economico europeo. Il cliente deve attestare la propria residenza fuori dal territorio dello Stato, bisogna compilare questo modulo. Non finisce lì, perché questo è ovvio. Bisogna versare il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione. Attenzione, se non lo si fa il primo giorno feriale successivo, scatta la sanzione. Il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, bisogna versare il denaro sul proprio conto corrente, consegnare all'intermediario finanziario del conto corrente fotocopia del documento di riconoscimento del cliente, consegnare sempre all'intermediario copia della fattura, della ricevuta, dello scontrino fiscale emesso, inviare una comunicazione preventiva anche in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Come cacchio si fa a fare la comunicazione preventiva? Come faccio a sapere che mi entra il cliente domani per fare questa operazione? La comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, dopo che oltre tutti i documenti all'inizio che io devo tenere fotocopiati, devo fare il versamento e ricordarmi il giorno feriale successivo dell'operazione e dare anche all'intermediario la copia di tutto. Ecco, come per una norma che sta in un decreto detto di semplificazione, questa è semplificazione, ma dice, direbbe Totò, ma mi faccia il piacere! Eccoci tornati in studio, cari ascoltatori, siamo qui con Pietro Colucci, che è imprenditore nell'ambito delle energie rinnovabili, si batte perché l'energia, le rinnovabili siano davvero una priorità nazionale. Ha rilasciato un'intervista su questo dicendo al governo, svegliati un secondo, perché questa è una priorità non meno importante di quella sulla quale è concentrato il governo, cioè quella della credibilità dei conti pubblici. Abbiamo visto quanto numerose, quanto significative e preoccupanti siano gli esempi di grandi imprese internazionali che stanno lasciando l'Italia proprio nel settore dell'energia e delle rinnovabili. Il caso di British Gas con Brindisi, il rigassificatore di ieri, il caso di Natural Gas Fenosa spagnola con l'impianto di Trieste, il caso di Veolia con i termovalorizzatori in Calabria. Vi rimando a quello che pensa in proposito sia il presidente del comitato imprese estere che investono in Italia, Giuseppe Recchi, delegato per gli investitori esteri in Italia. Lo trovate oggi pagina 46 sul Sole 24 Ore, con un approfondimento generale sulla presenza di capitale straniero in Italia. Gli investimenti diretti esteri stanno diminuendo come quota sul totale italiano dell'Europa in questi anni, o si cambia o si è tagliati fuori, è l'opinione di Giuseppe Recchi, ed è condivisa anche da Gianmaria Grospietro, che scrive un editoriale su questi stessi, su questi temi. Faccio un altro esempio: dopo questa brillante procedura di semplificazione per la tracciabilità, non tracciabilità di chi viene dall'estero in Italia, e avete sentito che cosa dovranno fare gli esercenti pubblici nel nostro paese con le notifiche preventive all'Agenzia delle Entrate e la copia di documenti che dovranno dare all'intermediario finanziario. E attenzione, ricordatevi, l'operazione va pagata dal conto corrente dell'intermediario il giorno feriale successivo, se no si diventa automaticamente possibili evasori. Viva la semplificazione! comunicazione. Altro esempio di ieri, questo dal Parlamento. L'argomento era i precari da assumere nella scuola, nel milione di dipendenti della pubblica istruzione italiana. Vecchia questione rispetto ai sindacati che dicono i tagli di Tremonti non fanno assumere tutti i precari. Torna per l'ennesima volta la questione in Parlamento. Prima il Parlamento pensa di alzare la tassa sull'alcolici per assumere altri precari, dopodiché ci ripensa. Il governo tace, si affida al Parlamento. Ieri il meccanismo per il quale l'assorbimento di nuovi precari si prende dal fondo che era stato accantonato per le retribuzioni di merito del milione di dipendenti pubblici nella scuola. Il sottosegretario del governo tecnico Marco Rossi Doria, noto e più per il suo impegno in parti difficili del paese per qualificare la scuola, di fronte a questa proposta si affida alle commissioni parlamentari, cioè non dice un piffero di niente. Che cacchio li abbiamo messi a fare i tecnici, se non per dire da tecnici che i politici in Parlamento, che a questo punto uccidono definitivamente il fondo i cui accantonamenti doveva andare a diversificare la retribuzione dei pubblici dipendenti nella scuola in base al merito, ciò di cui abbiamo bisogno, se invece la politica per l'ennesima volta dice merito, accantona fondi e poi se li pappa per assumere i precari. Se il governo dei tecnici, come ha fatto ieri il sottosegretario Marco Rossi Doria, non dice niente su questo, secondo me tradisce la sua missione. La politica poi, che in merito alla pubblica amministrazione continua a non volerlo mettere, è la stessa politica che scrive queste norme e che fa scappare le imprese internazionali dal nostro paese. Siamo sempre al solito. Sentiamo un po' di telefonate di ascoltatori e le commentiamo poi con Piero Colucci sui temi che ha iniziato a trattare con questo appello al governo. Il governo trascura l'energia, le rinnovabili sono per forza, devono essere equilibrate negli incentivi, ma bisogna battere con più intelligenza e con più profusione di energia. C'è il tema delle smart cities, delle smart grid, li abbiamo solo toccati in superficie. Adesso vediamo con le vostre domande se riusciamo ad approfondire meglio. Cominciamo con Massimo che ci chiama da Monza. Prego Massimo. Sì, buongiorno Giannino. Chiamavo anche riguardo a ieri lo stesso discorso del rigassificatore, sì. Senza entrare troppo nel merito perché non fa parte del mio campo. Sono d'accordo con lei che sia un enorme spreco questa fuga di aziende estere che scappano dall'Italia per queste difficoltà immense che si riscontrano in Italia nel poter fare impresa sostanzialmente. Però volevo portare due esempi concreti, sì, sul discorso delle tutele ambientali. Io mi occupo di acquisizione e ristrutturazioni societarie. Negli ultimi anni le posso dire che mi sono sfuggite di mano tanti affari perché di fronte a determinate situazioni l'affare cominciava a diventare non conveniente, e le spiego che cosa intendo dire. Tante volte si comprano delle società che poi sotto sotto hanno dei grandissimi, ma proprio grandissimi problemi di bonifica da affrontare o di smaltimenti da dover affrontare, e questi rendono l'affare, per quanto riguarda nel mio campo lavorativo, un affare non proficuo sostanzialmente, e quindi si molla il colpo. Ma le posso dire, sono tantissime le società che hanno fatto fino a oggi profitto senza rispettare quelle che sono le minime norme sulla tutela ambientale. Si trova di tutto in determinate situazioni, dall'olio, dall'amianto, cioè di tutto. Però e a questo... maggior ragione Massimo, proprio per questo, perché io non intendo negare il fatto che siamo un paese poi lassista nell'applicazione delle norme di sicurezza ambientale e così via in molti settori, lo siamo stati per molti anni purtroppo, è stata una delle caratteristiche del fatto che eravamo tardi allo sviluppo e quindi eravamo completamente distratti da questo negli anni 70 e negli anni 80. Proprio per questo però dovrebbe essere un paese che ha poi procedure e priorità precise, le procedure tali da massimizzare questo effetto e misure di controllo che non siano poi massicce, cioè inutili come avviene nel paese. Comunque grazie Massimo, sentiamo un altro paio di telefonate e poi sentiamo che ne pensa Pietro Colucci. Paolo da Lecce, prego Paolo, rapido. Ciao, buongiorno. Allora io volevo intervenire per la questione della sovrintendenza del Molise che ha fatto delle obiezioni per quanto riguarda. Io sono un archeologo, ci siamo sentiti altre volte, sì, con Oscar Giannino, sì, anche per posta elettronica sul problema. Dunque, mi riferisco al problema che oggi la legge sugli appalti nuova, che è estesa peraltro anche ad alcuni ambiti come il fotovoltaico, serve proprio a evitare, a chiudere le conferenze dei servizi rapidamente attraverso una procedura standard che si chiama valutazione preliminare di impatto archeologico, che serve a mettere al riparo le stazioni appaltanti da questo tipo di sorprese. La direzione generale, anche per nostra spinta, io faccio parte di un'associazione di categoria che appunto, sapendo che questa è anche, anche un mercato del lavoro per i giovani, chiaramente spingiamo molto su questo, certo, sull'applicazione SRC2. La direzione generale, diciamo, ci sta da un punto di vista supportando, la direzione generale del Ministero dei Beni Culturali, perché sta cercando di standardizzare anche per tutte le sovrintendenze attraverso apposite circolari questa procedura. Quindi sì, stiamo andando sicuramente verso il meglio. Sì. Sicuramente però manca, è molto carente, l'infrastruttura cartografica. L'imprenditore molisano sottolineava questo problema del fatto che è tutto mappato. Purtroppo io da tecnico posso dire che non è vero. Nel nostro paese c'è una parte elevatissima che non è mappata. Ci sono gravissimi problemi e vorrei sottolineare una cosa, che le risorse per far fronte a questo problema ci sarebbero se teniamo conto che la società Arcus... Ah già, ha ragione. Si fotte, scusate, no, scusate la parola. Ha ragione. Il 3% del bilancio delle grandi opere, sì. Per spargerli a pioggia progetti che con i costi che le opere sul territorio determinano non hanno niente a che vedere. Non hanno molto a che vedere. Vabbè, adesso non dobbiamo adesso su Arcus, che è un grande problema, perché ce ne siamo occupati più volte in questi anni. Comunque lei dice attenti a prendersi con le sovrintendenze archeologiche, perché laddove poi la cosa non è mappata è ovvio che il principio di cautela può prevalere rispetto a quello preventivo di fare in una fase, diciamo, pre-conferenza dei servizi, senza che poi andiamo alle impugnative dopo. E quindi questa è la segnalazione di un giusto problema. Sentiamo ancora Alessandro che ci chiama da Prato. Prego Alessandro. Sì, buongiorno Giannino. Allora, io ho chiamato ieri, poi non c'è stata modalità di tempo. Ascoltando ieri l'incipit della trasmissione, sì, 330 opere infrastrutturali bloccate solo, sì, nel 2011, sì, mi è cascato il fegato a terra. Già. E praticamente poi ho detto, vabbè, non voglio neanche sapere cosa è successo prima, però da europeista ho un vinto, nel senso, io mi sento europeo, non che non mi sento italiano, però sento di più un peso, diciamo, e mi dice la British Gas va via, oggi, sì, quella spagnola. Sì. Io dico... Poi Veoliac, è francese, Appunto, ora dico, ma Bruxelles dall'alto, nel senso, noi si fa tante storie. E che pretende che sia Bruxelles a dire non andatevene? Cioè, non riusciamo a convincerli noi, mica ci deve pensare Bruxelles, Alessandro. Allora, Alessandro giustamente dice che facciamo qualcosa, che un coordinamento europeo, però ripeto, la convenienza all'investimento resta nazionale. Colucci, che cosa rispondiamo ai nostri... Tre punti di vista veramente interessanti. Il primo è senz'altro vero, anche a me è capitato di vedere investitori stranieri che lasciano acquisizioni in corso perché le liabilities ambientali, cosiddette, cioè i rischi ambientali connessi alla gestione di imprese perfettamente legali, però sono superiori delle volte all'interesse degli investitori. Cioè la tutela ambientale oggi è un tema che va coniugato con lo sviluppo. Abbiamo vissuto 30 anni nella logica della dicotomia ambiente o sviluppo, è il momento di cambiare passo e cercare di cambiare la congiunzione da ambiente e sviluppo, anzi ancora di più ambiente e sviluppo, cioè terza persona del verbo essere, perché la green economy è questo e Confindustria, le imprese devono fare la loro parte. È inutile dire che c'è un sistema di attenzione che coinvolge la responsabilità sociale delle imprese, molti bilanci delle imprese vengono oggi ispirati a questa responsabilità, cioè a dare evidenza agli stakeholders su quanto l'impresa ha fatto nel coniugare la propria attività con l'ambiente in cui è calata. Ma bisogna fare di più, devo dire, ha fatto un lavoro egregio il presidente Aldo Fumagalli della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria, rilanciando un settore con un'estrema attenzione al rapporto appunto fra ambiente e sviluppo. Quindi il tema c'è, e vi ricordo purtroppo che sulle bonifiche c'è una legislazione concorrente, delle competenze concorrenti fra Stato e Regioni, cioè lo Stato dispone dei fondi ma le Regioni li amministra, quindi ancorché si trovassero dei fondi, e vi assicuro non ci sono più, le Regioni dovrebbero poi amministrarli indirizzando le bonifiche nelle aree più sulle bonifiche di interesse cosiddetto nazionale, poi via via in ordine di priorità rispetto a quelle che sono più ignote. Allora, io adesso la interrompo perché ci abbiamo venuto di traffico, poi riprendiamo, la faccio già da adesso la domanda, Colucci. Non è che in questi anni però i diversi settori, delle diverse filiere energetiche delle imprese italiane e di quelle straniere che erano in Italia, ma insomma nel mercato italiano, si sono fatte anche tra loro una guerra forsennata per disputarsi gli incentivi pubblici, e in questa guerra forsennata alla fine si è perso anche di vista quelle che erano le priorità? Perché poi il problema non è solo dire più soldi per tutti, perché in un paese che dovrebbe, visto sull'energia, quanto costa al consumatore italiano, ma nel complesso del nostro conto economico nazionale, se non c'è la priorità, la lotta poi per incentivi significa che tutti partono, gli incentivi cambiano, si resta a metà, quindi nessuno neanche totalizza il bene, ma soprattutto il bene comune poi non ci sta. Ecco, torniamo con i Doors verso la chiusura. Comunque lo spread oggi è a quota 315-316, quindi insomma diciamo non troppo preoccupante. Un'ultimissima telefonata, così aggiungiamo questo altro spunto oltre a quello della lotta per gli incentivi e alla fine delle risposte di Colucci sul problema dei tempi e delle autorizzazioni. L'ultima chiamata degli ascoltatori, abbiamo Maurizio che ci chiama da Roma. Prego Maurizio. Buongiorno a tutti, sono Maurizio, sono un imprenditore delle energie rinnovabili e volevo prendere spunto dalla sua cosa che ha detto prima relativamente al discorso della sovrintendenza. Sì. Nel Molise. La sovrintendenza, a me che sono un imprenditore che fa questa attività, ha posto dei problemi non indifferenti e le semplificazioni di cui parlava prima secondo me sono relativamente fattibili, perché se consideriamo che per un'autorizzazione unica un fotovoltaico occorre un anno e mezzo quando si è fortunato, è assurdo parlare di semplificazioni, l'investimento diventa non più fattibile, uno. E due, le sovrintendenze possono bloccare le autorizzazioni uniche con una semplice proposta di ampliamento delle zone a vincolo, e visto che c'è il suo ospite voglio avere una risposta anche in merito a questo tipo di grazie Maurizio, sentiamo subito Colucci. No, infatti il tema è fondamentale. Non dimentichiamoci che le sovrintendenze sono chiamate a tutelare e a conservare uno dei patrimoni più importanti del mondo in termini culturali, quindi non gettiamo la croce addosso alle sovrintendenze, sono lì esattamente per fare questo. Il tema è che come si fa a conciliare l'ambiente, sviluppo e tutela del patrimonio artistico di un paese come il nostro. Bisogna farlo rendendo noti i vincoli che sono disponibili e devono essere disponibili prima che si decidano gli investimenti o si decida di destinare un'infrastruttura. Pensiamo alla discarica di Roma, che in questi giorni è stata scelta su un sito vicino a Villa Adriana, patrimonio dell'UNESCO. Quello è un dato che oggettivamente fa rizzare i capelli, ed è giusto che sia così. E il tema è che bisogna invertire il sistema. Tenete conto che per ottenere un'autorizzazione su un impianto eolico oggi sono necessari ben 32 pareri di enti diversi. Dico 32. Significa che qualunque soggetto deputato a dare il proprio giudizio viene chiamato alla conferenza di servizi e esprime il proprio parere. Quindi non solo bisogna rendere noti i vincoli prima che un investimento si decida, per dare certezza alle imprese pubbliche e private, soprattutto se straniere, che non capiscono la legislazione nazionale, ma poi in corso delle conferenze di servizi questi vincoli, se ignorati, devono essere resi noti con una ferma opposizione da parte di chi ha il potere di farlo. Davanti a un quadro chiaro, le imprese non hanno voglia di investire a tutti i costi in un'area dove non si può fare, evidentemente sceglieranno altre localizzazioni. Prima ragione. Seconda ragione, il tema delle scelte rispetto al futuro del paese. E la verità è che noi non abbiamo ancora sentito uno dei nostri politici che tra un anno, come giustamente diceva D'Alema stamattina sul Corriere, si ricandideranno a guidare il paese. Ebbene è che succeda, perché il governo dei tecnici può essere solo concepito, a mio giudizio, come un governo di transizione per risanare un sistema che ovviamente ha perso credibilità internazionale. Ma il tema è che io non ho ancora sentito un politico dire: e questo è il paese che vorrei. Il vero grande tema, secondo me, e Bersani l'ha detto saggiamente in un suo recente saggio per una buona ragione, il tema di abbinare sviluppo economico e ambiente, addirittura unificando i due ministeri, non perché l'ambiente vada visto come subalterno allo sviluppo, ma che vada visto assolutamente come complementare. Non si può più ragionare in termini di infrastrutture senza concepire l'idea di dove si colloca, dove si cala un impianto, un'infrastruttura che serve agli interessi più generali. E soprattutto bisogna entrare nella logica che i cittadini hanno voglia di partecipare alle grandi scelte strategiche del paese. Bisogna avere il coraggio, la statura morale di chiedere il consenso ai cittadini dopo che il mandato che gli elettori gli hanno dato ha fatto sì di strategicamente decidere dove e cosa fare. Però Colucci, parliamoci chiaro, io i vecchi partiti lavorerò per distruggerli, a sinistra come a destra, nel senso che sull'energia le prove che noi abbiamo dato nel dopo Chernobyl e dopo Fukushima è stata che la politica ha semplicemente assecondato l'emotività, e noi un modello energetico l'abbiamo semplicemente scelto per inerzia nel peggioramento della dipendenza strategica da paesi un po' particolari, e con un mix che, come lei sa, non ha eguali tra i paesi avanzati, visto che noi utilizziamo una percentuale di gas incredibile col turbogas, abbiamo per anni puntato su quello dopo Chernobyl, e questo comporta un po' di problemini, per così dire. Non è che nel frattempo la politica, i vecchi partiti di cui D'Alema è così pieno di nostalgia, ci ha consegnato un paese capace di riflettere sulle priorità energetiche, o no? Purtroppo no, perché il tema è che non abbiamo chiarezza rispetto alla vision di cui vorremmo ispirare le scelte strategiche. In realtà non c'è un punto d'arrivo, un punto d'atterraggio rispetto alle scelte strategiche che i politici vogliono fare o che si propongono di fare. E sull'energia abbiamo fatto una serie di errori, sul nucleare. Il referendum popolare ha bocciato probabilmente sull'onda di Fukushima, e tutti sanno che se non ci fosse stato Fukushima non si sarebbe probabilmente raggiunto il quorum sul nucleare. Il che significa ancora una volta che una parte del paese sarebbe stata costretta ad accettare una localizzazione di impianti che probabilmente non avremmo voluto. Ma no, infatti non ne saremmo usciti, è inutile. Non ne saremmo usciti. Io ho visto la difficoltà di realizzare impianti di trattamento rifiuti nel tempo. Si immagina una centrale nucleare vicino a casa. No, ma per carità. Però il problema è che anche su questo, anche l'impresa, siccome c'è un grande equivoco, la gente pensa che l'impresa voglia se lo sviluppo per sé, soldi per sé, e non faccia rispetto dell'ambiente, anche l'impresa penso che una sua rappresentanza debba cambiare su questo. Lei che dice? Assolutamente sì, le imprese devono cambiare passo e devono tornare ad avere il ruolo propositivo che il paese si aspetta da loro. Allora, grazie a Pietro Colucci. Ragazzi in ascolto, semplificazioni. A domani, va.